giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'accordo definitivo sulle risorse aggiuntive per la sanità 2024 è stato sottoscritto dalla Regione con i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e FIALS. Contrari, UIL e NURSIND. Prevede un budget pari a oltre 600.000 euro. Le ragioni di favorevoli e contrari. La Confcommercio ha diffuso i dati del suo osservatorio trimestrale sulla fiducia delle imprese del terziario. Situazione in miglioramento, anche se l'accesso al credito rimane un nodo da risolvere. Oggi giornata da bollino rosso, traffico intenso sulla 4 in direzione Trieste, leggera coda alla barriera dell'Isert. Non ci sono criticità al momento di rilievo sulla restante rete autostradale regionale. Un primo assaggio di controesodo mescolato al traffico degli utenti diretti verso le località di mare si avrà dopodomani. Una donna di 48 anni è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale triestino di Cattinara a causa di una caduta accidentale avvenuta la notte scorsa in un campeggio di Monfalcone nella zona di Marina Giulia. A Remanzacco i residenti protestano contro l'installazione di una nuova antenna per la rete mobile 5G. Vogliamo la salute, no al 5G, recitano gli striscioni appesi sulle facciate del paese. I boschi della regione sono ancora alle prese con l'invasione del bostrico, ma in alcune zone gli attacchi dei coleotteri che prendono di mira gli abeti rossi sembrano rallentare. Visite guidate alla scoperta della Trieste di Umberto Saba. Tutti i proventi andranno a sostegno del restauro della storica libreria di Saba. Grande entusiasmo per la presentazione dell'Udinese nella cornice cittadina di Piazza Libertà a pochi giorni dal debutto in campionato di domenica a Bologna. Le 12:32 minuti, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Beals e Andrei Marusic in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 14 agosto, vigilia di Ferragosto. In apertura dunque i temi della sanità. Torniamo a parlare dell'accordo definitivo sulle risorse aggiuntive per la sanità 2024 che è stato sottoscritto dalla Regione con i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e FIALS. Contrari invece UIL e NURSIND. L'accordo prevede un budget pari a oltre 600.000 euro. Sentiamo allora perché non tutti i sindacati si sono trovati d'accordo. A firmare sono stati CGIL, CISL e FIALS, contrari invece UIL e NURSIND. Al centro del contendere l'accordo definitivo firmato ieri al Burlo Garofolo di Trieste sulle risorse aggiuntive regionali per il 2024, che prevedono un budget di poco superiore ai 600.000 euro. A inizio anno i sindacati avevano criticato le nuove modalità d'assegnazione dei fondi alle aziende sanitarie che avevano portato a un taglio drastico del finanziamento per l'area di Trieste e di mettendo a rischio l'operatività dei servizi, questa la denuncia dei rappresentanti dei lavoratori. Ma per UIL, FPL e NURSIND questo accordo non basta, poiché, scrivono in una nota, non vi è nessuna garanzia dell'importo finanziato dalla Regione, non si conoscono le tempistiche di erogazione e non ci sono assicurazioni che le risorse siano disponibili anche per il 2025. Le due sigle sindacali chiedono anzi un adeguamento al rialzo del trattamento stipendiale di tutti i lavoratori del comparto sanità, a prescindere dall'azienda sanitaria regionale dalla quale si è assunti e per la quale si lavora. Una misura da 5 milioni di euro per UIL FPL e NURSIND, che chiedono che la Regione sia pronta a stanziare senza attingere ai fondi ex RAR. Ricomposto sempre ieri anche lo scontro tra i vertici di Asugi e circa 300 camici bianchi dell'area giuliana, che lamentavano una disparità di trattamento rispetto ai colleghi dell'area isontina. Problema risolto grazie ai quasi 4,4 milioni di euro elargiti dalla Regione per il fondo di perequazione, che già a partire da quest'anno sarà unico per tutti i medici dipendenti di Asugi e che retribuirà tutti allo stesso modo per obiettivi, incarichi, reperibilità e guardie. Finalmente si è messo in pratica quanto chiedevamo dal 2021, ha commentato Alberto Peratone, di Aro Oiemac. Soddisfazione anche dal direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, secondo cui tutti i dipendenti hanno avuto qualcosa in più e non qualcosa in meno. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Confcommercio ha diffuso i dati del suo osservatorio trimestrale sulla fiducia delle imprese del terziario. Situazione in miglioramento, anche se l'accesso al credito rimane un nodo da risolvere. Aumenta la fiducia delle imprese del commercio e dei servizi, sia pure in un contesto in cui l'accesso al credito rimane costoso e viene utilizzato più che per gli investimenti per far fronte ad esigenze di cassa. A dirlo l'osservatorio trimestrale di Confcommercio Friuli Venezia Giulia, un sondaggio realizzato su 800 imprese del settore. In particolare aumentano le realtà che segnalano un miglioramento dei propri ricavi al netto dell'andamento stagionale. Si passa dal 18% di 3 mesi fa al 23% registrato oggi, con oltre la metà degli intervistati che segnala ricavi stabili e un altro 23 che invece ne lamenta la diminuzione. Aumentano anche gli imprenditori che pensano di aver migliorato la propria capacità di far fronte al fabbisogno finanziario delle proprie aziende. Erano l'8% 3 mesi fa e oggi sono il 12%, con i 2/3 degli intervistati che invece segnalano una situazione stabile, ma anche con quasi un imprenditore su 4 che segnala difficoltà aumentate. Sostanzialmente stabile da questo punto di vista la percentuale di imprese che ha richiesto alle banche i fondi necessari per la propria attività. È passata in un trimestre dal 22 al 23%. Finanziamenti utilizzati soprattutto per far fronte ad esigenze di liquidità e cassa o per la ristrutturazione del debito, mentre è in leggero calo la percentuale di imprenditori che chiedono alle banche denaro per effettuare investimenti e che si attesta al 31,6%. Finanziarsi in banca, spiega il comunicato di Confcommercio, continua comunque a costare tantissimo, anche se sta migliorando la situazione dei costi non legati ai tassi di interesse decisi dalla banca centrale, come ad esempio le spese di istruttoria. Secondo lo studio realizzato da Format Research, infine, rimane in crescita il numero degli occupati del settore. Andrea Vardani, GTGR Friuli Venezia Giulia. Una donna di 48 anni è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale triestino di Cattinara a causa di una caduta accidentale avvenuta la notte scorsa in un campeggio di Monfalcone nella zona di Marina Giulia. L'allarme è scattato attorno alle 23. La centrale operativa SORES del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e l'automedica che ha stabilizzato la paziente. Si tratterebbe di una turista e l'ha condotta in codice rosso in ospedale per il grave trauma cranico provocatole dall'impatto al suolo. I sanitari si sono riservati la prognosi. Dalle prime indagini condotte dalle forze dell'ordine sarebbero escluse responsabilità dirette di terze persone. E intervento dei vigili del fuoco di Trieste poco fa nella zona delle Ginestre, nel comune di Duino Aurisina. Una ragazza sarebbe scivolata su uno dei sentieri che conducono verso il mare, non potendo poi proseguire autonomamente. L'intervento dei soccorritori ha comunque rallentato il traffico presente in questi momenti sulla strada costiera. Trasportata in elicottero all'ospedale di Cattinara dopo che la sua Fiat Panda si è rovesciata sulla strada regionale 352 nei pressi di Aquileia. Il sinistro è capitato ieri in tarda serata, vittima una 61enne gradese che versa in condizioni serie ma non è in pericolo di vita. A far scattare i soccorsi alcune persone residenti nei pressi del tratto stradale vicino al Foro Romano. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Oggi giornata da bollino rosso, traffico intenso sulla 4 in direzione Trieste, leggera coda al momento alla barriera dell'Isert, ma non ci sono criticità di rilievo sulla restante rete autostradale regionale. Un primo assaggio di controesodo mescolato al traffico degli utenti diretti verso le località di mare si avrà dopodomani. Potrebbero infatti verificarsi code a tratti in entrata alla barriera di Trieste-Isert e nel tratto a due corsie Portogruaro-San Donà. Più problematica invece la situazione al confine tra Croazia e Slovenia in direzione di Capodistria, 5 km di coda a Dragogna con ulteriori code sulla statale slovena che da Smari e Monte di Capodistria porta verso l'allacciamento con l'autostrada. La vera giornata da bollino nero sarà sabato 17 agosto. I volumi di traffico potrebbero avvicinarsi alle 180.000 unità. Qualora le code fossero eccessive, potrebbe scattare il protocollo transfrontaliero attuato dalla società autostradale slovena di comune accordo con Autostrade Alto Adriatico di indirizzamento traffico tramite pannelli a messaggio variabile lungo l'itinerario alternativo per Gorizia. Domenica 18, ultima giornata per questo fine settimana da bollino rosso, sempre sulla A4 e sempre da Trieste a Venezia con una stima di circa 170.000 transiti. E allora sentiamo come sarà il tempo di queste giornate. Prima però i dati al momento comunicati dall'ARPA. Il cielo è sereno su pianura e costa, sereno o poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste ci sono 31 gradi, il mare è quasi calmo, con temperatura di 29 gradi e 5 decimi. A Udine e Pordenone 33 gradi, a Gorizia 33 gradi e 5 decimi. A Sappada 21 gradi e mezzo, a Piancavallo 23 gradi e mezzo. A Tervisa Treviso 23 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 27 gradi, a Tolmezzo 30. Sul Monte Zoncolan 19 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 20 gradi. Passando alla costa a Grado ci sono 29 gradi e 5 decimi, a Lignano 31 gradi. La temperatura del mare in entrambe le località costiere è di 29 gradi. Le alte temperature dunque non accennano a diminuire in tutta la regione, un calo dei valori è previsto dopo il fine settimana. Oggi si potrebbe essere qualche rovescio su Alpi e Prealpi. Sull'evoluzione odierna e sulla previsione di domani, Ferragosto, abbiamo sentito Francesco Sioni dell'Osservatorio Meteorologico Regionale. Nel pomeriggio di oggi avremo sicuramente temperature molto alte sulla pianura, fino a 35-38 gradi, sulla costa tra i 32 e i 35. In serata possibile appunto che qualche temporale, qualche rovescio sfiori la Carnia e soprattutto le zone al confine con il Cadore. Non si può tuttavia escludere anche in tarda serata l'alta pianura, la media pianura e soprattutto le zone del Carso e appunto dell'Isontino al confine con la Slovenia. Per Ferragosto farà bel tempo? Ferragosto sarà una giornata all'insegna appunto del bel tempo, nel senso che avremo cielo sereno sulla maggior parte della regione, al più poco nuvoloso per qualche velatura, e sulla zona montana nel pomeriggio la formazione di qualche cumulo pomeridiano. Ancora temperature elevate domani in pianura, 35-38 gradi, sulla costa si sentirà l'afa in serata e nella notte, quando le minime tenderanno a non scendere e rimarranno attorno ai 25-28 gradi circa. Domenica per ora le previsioni vedono l'arrivo di un fronte che potrebbe portare a temporali sparsi sulla regione e anche a un possibile calo delle temperature. Tuttavia, nel caso in cui il fronte scendesse più a sud, gli effetti sarebbero molto più ridotti. Quindi per ora possiamo solo aspettarci un calo delle temperature tra domenica e lunedì, ma che comunque sarà temporaneo e dovrebbe essere di circa 3-4 gradi per quanto riguarda le massime e non oltre questo numero. Torniamo alla cronaca. Ha revocato il piano di ricerca persone scomparse per James David Lowry, il 46enne di origine americana residente a San Quirino, che non dava traccia di sé da una settimana. Il suo cellulare era stato localizzato in Austria e gli inquirenti sono riusciti finalmente a mettersi in contatto con lui. Il questore di Udine ha disposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione per 15 giorni della licenza di un locale nel quartiere dei Rizzi di Udine. In diverse occasioni personale delle forze di polizia sono intervenute per eventi di rilievo anche penale che hanno interessato questo locale e i suoi avventori, accertando la presenza di cittadini italiani e stranieri pregiudicati, con a carico segnalazioni per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e armi. Solo pochi mesi fa la questura di Udine aveva già diffidato il gestore dal somministrare alcolici a persone già in evidente stato di ebbrezza a minorenni, e tra gli episodi quello del 17 luglio scorso, quando i carabinieri erano intervenuti sul posto per schiamazzi e musica ad alto volume. Agenti della polizia di Trieste hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare disposta dalla Corte d'Appello di Trieste per l'estradizione verso la Repubblica del Kosovo di un cittadino serbo di 39 anni, condannato nel suo paese alla pena di 3 anni e 4 mesi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nello specifico, il personale del commissariato di Duino, incaricato dalla Procura Generale di Trieste alla notifica dell'atto, ha predisposto un'attività di osservazione alla ricerca del soggetto. Il destinatario della misura è stato quindi individuato in località Opicina e accompagnato in commissariato per le formalità di rito, al termine delle quali è stato portato nel carcere di Trieste in attesa di estradizione verso il Kosovo. A Remanzacco i residenti protestano contro l'installazione di una nuova antenna per la rete mobile 5G. Vogliamo la salute, no al 5G, recitano gli striscioni appesi sui muri del paese. Sono centinaia a Ziracco, frazione di Remanzacco, i cartelli, gli striscioni affissi su finestre, terrazze, muretti, nei giardini, sulle ringhiere, di protesta contro l'installazione dell'antenna 5G, un'antenna installata ma non ancora completata nel campo sportivo della frazione, a breve distanza dalle case e da un parco giochi per i bambini. Una protesta cominciata già nel mese di luglio, che era culminata con un tentativo di blocco da parte di alcuni cittadini all'accesso delle macchine operatrici sul luogo del cantiere. I timori per le possibili ripercussioni sulla salute sono stati espressi al comune, non appena la gente della zona ha avuto contezza del progetto. Gino Chiesurin, Comitato No 5G. Ormai la tecnologia non si può spegnere, non è che capiamo anche noi, il 5G poi anche per legge va messo, tutte queste cose, ma usiamo la testa, usiamo la precauzione, cerchiamo di fare le cose il più possibile sicure secondo quel poco che conosciamo, perché ci sono tante teorie e poi vengono fuori fra 10 anni come altre cose che non facevano male e poi magari fanno male. Daniela Briz, sindaco di Remanzacco. Il sito che rispondeva ai parametri previsti dal PNRR è stato identificato nel sito del campo sportivo e il posizionamento dell'antenna rispetta anche la distanza prevista dalle norme dalle prime case di abitazione. Ora come amministrazione comunale sappiamo insomma del comitato, ci siamo incontrati più volte con il comitato, abbiamo spiegato e rimaniamo sempre aperti al dialogo, al confronto, nel rispetto sempre delle parti. Una battaglia che andrà avanti, i cittadini hanno organizzato una colletta per pagare le spese legali per 2 studi a cui si sono rivolti. Remanzacco, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Rafforzare le sinergie del Friuli Venezia Giulia con l'Ontario sotto il profilo culturale, creare nuove opportunità per le realtà economiche regionali e promuovere la regione a 360 gradi anche per attrarre investimenti d'oltreoceano. Sono gli obiettivi ribaditi dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, all'onorevole Michael Tibbolo, Associate Minister of Mental Health and Addiction dell'Ontario, durante l'incontro che si è svolto al Parlamento di Toronto, a cui hanno partecipato anche il presidente di Friuli nel Mondo, Franco Jacob, e il consigliere dell'ente, Pierino Chiandussi. Si tratta del secondo incontro tra la massima carica dell'Assemblea Legislativa Regionale e il ministro dell'Ontario di origini italiane, in cui sono state riprese e approfondite alcune tematiche comuni su economia, sanità e immigrazione, già trattate nella riunione del luglio dello scorso anno a Trieste. Il comune di Trieste si è avvalso dell'aiuto dell'intelligenza artificiale per elaborare circa 8.000 risposte di libera interpretazione, di cui 800 relative al quesito finale che prevedeva la possibilità di fornire qualsiasi tipo di suggerimento inerente al questionario partecipativo per la riqualificazione del lungomare di Barcola. I rispondenti sono stati più di 2.500. I dati quantitativi sono già stati presentati a febbraio, più difficile è stata appunto la gestione delle domande aperte. Il risultato dell'elaborazione è stato reso possibile grazie al contributo del dottor Luca Bandelli, giovane triestino laureato in intelligenza artificiale all'Università di Groningen. Lo strumento sperimentale usato per l'elaborazione delle risposte, che costituisce una modalità assolutamente nuova nell'ambito della pubblica amministrazione, è stato denominato, con suggestione marcatamente triestina, AILO. Sulla base delle elaborazioni spicca la disponibilità dei triestini a raggiungere Barcola in bici previo miglioramento della rete ciclabile. La scarsità delle strutture per persone disabili, ben viste terrazza sul mare al bivio di Miramare e presenza di ulteriori alberature. I boschi della regione sono ancora alle prese con l'invasione del bostrico, ma in alcune zone gli attacchi dei coleotteri che prendono di mira gli abeti rossi sembra rallentare. Le buone notizie vengono dall'Alta Val Degano. Nei boschi di Comeglians, Forniavoltri, Rigolato e Sappada il bostrico sta arretrando. Finalmente notiamo un rallentamento, la minaccia non è ancora completamente rientrata. Abbiamo una rete di trappole che andiamo a controllare settimanalmente. In queste trappole ci sono dei feromoni che attirano gli insettini, che poi non sono in grado di uscire dalla trappola e quindi noi poi siamo in grado di fare perlomeno una stima della quantità di insetti che vengono attirati settimanalmente. Probabilmente la primavera fresca e piovosa ha da una parte rafforzato le piante e dall'altra sfavorito l'insetto. Il coleottero che scava gallerie sotto la corteccia degli abeti rossi, privandoli della linfa, ha uno scopo preciso: accelerare la morte delle piante vetuste. Ma da Vaia in poi, con così tanti alberi abbattuti a disposizione, la popolazione del bostrico è esplosa, tanto da riuscire anche ad attaccare le piante sane. La gestione del bosco è l'unico strumento a disposizione per arginare il problema, comunque di difficile risoluzione. È molto difficile riuscire a capire quali sono le piante attaccate. E bisognerebbe essere lì al momento giusto per tagliare la pianta fin quando l'insetto è ancora sotto corteccia. qui da noi sta rientrando l'emergenza bossico per ora, però non si possono fare grandi previsioni, staremo a vedere se continuerà o se ci saranno altre perturbazioni a carico del bosco e che possono di nuovo favorire il bostrico. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel servizio l'intervista a Grazia Romanin, guardia forestale di Fornia Voltri. Due visite guidate alla scoperta della Trieste di Umberto Saba. Tutti i proventi andranno a sostegno del restauro della storica libreria di Saba. Un piccolo gruppo di turisti si riunisce davanti allo studio dello psicanalista Edoardo Weiss, che curò Umberto Saba dal 1929 al 31 e che lo spinse a cercare l'origine della sua depressione nella sua infanzia, in quel piccolo Berto al centro di una delle più note poesie del canzoniere. La visita guidata è organizzata dal Museo della Comunità Ebraica di Trieste, Carlo e Vera Wagner. Domani il tour in italiano, per il quale i posti sono già esauriti. Oggi quello in inglese, pensato per i turisti stranieri. La guida turistica Paola Alzetta. Alcuni vengono attirati dall'estero per ragioni di ebraismo proprio. Alcuni vengono attirati semplicemente perché, conoscendo la letteratura europea del XX secolo, non possono ignorare ovviamente Saba. Alcuni vengono per pura curiosità. Tappa obbligata è la statua dedicata al poeta, occasione per rievocare il legame psicologico e poetico di Saba con Trieste, la città bella tra i monti rocciosi e il mare luminoso, come il poeta la definisce nel componimento Avevo del 1944. Un legame profondo anche dovuto al suo rapporto con la comunità slovena di Trieste, con la sua balia che abitava a pochi metri da qui, in Via del Monte. E poi la libreria Saba di Via San Nicolò, dove il poeta lavorò per 35 anni. Chiusa dall'estate scorsa, è oggetto di una complessa restaurazione che finirà all'inizio di settembre. Proprio alla libreria andranno i fondi delle visite guidate. Spetterà poi alla moglie e alla figlia dello storico custode Mario Cerne la decisione sul futuro della libreria antiquaria. La destinazione non cambierà. La libreria avrà una parte museale e una commerciale. Gli eredi di Cerne sceglieranno se pensare a un affitto o anche a un biglietto d'ingresso. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport, il calcio, grande entusiasmo ieri per la presentazione dell'Udinese nella cornice cittadina di Piazza Libertà a pochi giorni dal debutto in campionato di domenica a Bologna. Fischio d'inizio alle 18.30. Il boato, la festa, i tifosi dell'Udinese riempiono di passione Piazza della Libertà per una presentazione che emozione travolge quando viene chiamato il numero 7, Alexis Sanchez. Il Niño, arrivato in Friuli 16 anni fa, si è fatto uomo e campione al Barcellona, Arsenal e Inter e ora è ritornato per fare, dice, ancora grandi cose con l'Udinese. Prima di lui, sul palco, sfilano i giocatori bianconeri, si inizia dai portieri. Okoye è il primo a farsi abbracciare dal calore del pubblico in una piazza bollente. Il capitano Toven non riesce a nascondere l'emozione. La squadra di Runjic è fatta, ma bisogna sfoltire la rosa composta oggi da 37 elementi. Success e Silvestri sono ai margini, non fanno parte del progetto e devono trovare una sistemazione, mentre la partenza importante dovrebbe essere quella di Samardžić, anche se la trattativa con il Milan va avanti a rilento. Poi ci potrebbe essere ancora un'uscita in difesa se l'offerta per Perez o Biol sarà irrinunciabile per il club friulano. Un mercato che comunque ha già convinto i tifosi, passione che fa sfiorare quota 13.000 abbonati a 4 giorni dall'esordio in campionato domenica allo stadio Dall'Ara contro il Bologna. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Eccoci agli appuntamenti di oggi. Nel chiostro del monastero di Santa Maria in Valle andrà in scena alle 21 il concerto Amadeus al top omaggio degli incontri di musica da camera a Wolfgang Amadeus Mozart. Si esibirà l'eccezionale pianista Konstantin Lifschitz, che presenterà una rara versione cameristica del concerto KV451 in re maggiore. L'Associazione Internazionale dell'Operetta Friuli Venezia Giulia propone, nell'ambito di Trieste Estate 2024, nella cornice del giardino del Museo Sartorio alle 21, lo spettacolo musicale Donne che Donne, scritto e interpretato da Michela Vitali con Corrado Gulin alle tastiere. Lo spettacolo racconta l'emancipazione femminile delle donne triestine dai primi del Novecento ai giorni nostri. E continua fino a domani il carnevale estivo muggesano alle 21, Pet & Son, Party Band, spettacolo live con un ampio repertorio musicale. Ogni giorno i chioschi su Caliterna presenteranno un'ampia offerta enogastronomica a cura delle compagnie del carnevale. Tutti gli spettacoli e i concerti sono gratuiti. E alle 12.54 minuti si chiude così questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Andrei Marussic e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e di Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. A tutti voi l'augurio di una buona vigilia di Ferragosto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.